I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. La settimana scorsa i mercati azionari si sono dimenticati della Grecia e si sono accorti dello scoppio della bolla cinese. Abbiamo avuto giornate alla cardiopalma come non si vedevano dalla crisi di Lehman Brothers. Enormi perdite all'inizio della settimana e poi vistoso recupero nella seconda parte grazie a molti fattori. Intanto all'intervento di stimolo monetario messo in atto dalla Banca Centrale Cinese che in tre operazioni ha iniettato quasi 50 miliardi di yuan nel sistema bancario cinese, ha tagliato i tassi di interesse e ha tagliato il tasso di riferimento dello yuan nei confronti del dollaro, portandolo ai minimi da 4 anni. In questo contesto, che comunque ha spaventato gli investitori di mezzo mondo, perché è sempre difficile riuscire ad interpretare lucidamente le politiche cinesi, in particolare quelle in campo finanziario, il mercato ne è uscito e anzi si guarda positivamente ora agli Stati Uniti, dove invece l'economia continua a dare segni positivi, come dimostrato dal dato sul PIL del secondo trimestre, cresciuto ben oltre le attese, più 3,7%. Piazza Affari è finita sull'ottovolante, come tutte le altre piazze, ma mantiene ancora il territorio positivo da inizio anno. I titoli che sono stati sotto i riflettori, intanto il settore del lusso, con i dati di bilancio incoraggianti che hanno diffuso due grossi player del settore, Ferragamo e Cucinelli, anche se Ferragamo ha avuto giornate difficili. Sugli scudi tutto il comparto petrolifero, perché hanno ripreso fiato le quotazioni del petrolio dopo i minimi sotto i $40 che erano stati toccati di recente. E a proposito di petrolio, va segnalata la scoperta di Eni del maxi giacimento di gas in Egitto, considerata riportata straordinaria. Prima di concludere, con questo lunedì che riparte in rosso sui mercati asiatici, come sempre uno sguardo agli appuntamenti da monitorare in settimana. Intanto oggi è chiusa la borsa di Londra, il 3 e il 4 settembre sarà chiusa quella cinese, arriva l'inflazione europea nei prossimi giorni, si riunisce la Banca Centrale Europea, primo meeting importante dopo l'estate, il dato più rilevante della settimana arriva venerdì prossimo ed è la disoccupazione americana di agosto. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Ci sono due buone notizie per l'economia italiana. I campioni del Made in Italy, Eni ed Enel, hanno segnato un doppio colpo importante su scala globale. L'Eni ha scoperto un giacimento di gas di rilevanza mondiale nel Mar Mediterraneo al largo della costa egiziana. La scoperta, come spiega l'Eni, potrà garantire la soddisfazione della domanda egiziana di gas naturale per decenni, perché il pozzo può avere un potenziale fino a 850 miliardi di metri cubi di gas. Senza contare che in futuro quello stesso pozzo potrà diventare un importante nodo di approvvigionamento strategico per l'Italia e potrebbe anche far cambiare gli equilibri geopolitici nell'area mediterranea. Nel momento in cui i ribassi delle quotazioni del petrolio mettono un'ipoteca sui bilanci delle grandi compagnie petrolifere mondiali e le costringono anche a tagli degli investimenti, questa scoperta potrà avere un impatto positivo anche sull'utile di Eni, come ha spiegato lo stesso Claudio Descalzi, che oggi è in Egitto per spiegare alle massime autorità di quel paese lo straordinario potenziale di quella scoperta. Nel contempo Enel ha annunciato che diventerà, con Enel Green Power, il primo operatore di fotovoltaico nel Brasile. La società guidata da Francesco Venturini si è aggiudicata, nell'ambito della gara pubblica Leilão de Reserva, il diritto di sottoscrivere dei contratti ventennali di vendita di energia per un totale di 553 megawatt, relativi a 3 nuovi progetti. Enel Green Power investirà circa $600 milioni USA per la costruzione dei nuovi impianti, che saranno completati ed entreranno in esercizio nel 2017. Insomma, un doppio colpo per le grandi imprese italiane e un buon inizio per il dopo ferie del Made in Italy. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.